correre per andare chissà dove. Ogni volta che mi specchierò e guarderò lontano, incrocerò lo sguardo sognante di un bambino. Vorrei dirmi tutto ciò e niente lascia perdere. Sognare non aiuta. Ho visto il fiantumarsi di ogni cosa, soprattutto il desiderio di morderle le labbra dopo una carezza sbagliata di una vita azzardata, sospeso sulla corda. Ah, ora che stai pensando? Ah, fermati e datti un voto. Tremano le gambe, sto cadendo. Vorrei svegliarmi a mezzogiorno di una vita senza fretta. Ah, ora che stai pensando? Ah, fermati e datti un voto. Paura di non essere il migliore, paura di non fare, paura di partire, perché partire è scappare. Potrei concedermi un momento per riposare. Io voglio sentirmi libero di contemplare il mare. Ti prego per stanotte resta con me, io non mi so concedere. Ma la più grande colpa sarà sentirmi in colpa. Potrei singhiozzare, tirare calci o morire. Deve restare tutto uguale, anche se uguale per me impazzire. Ah, ora che sta impazzendo.